Strade e motori. Strade e motori. Di Massimo Di Scienza. Amici di Radio 24, buona domenica, ben ritrovati all'appuntamento settimanale che vi porta a conoscere meglio il mondo in movimento a strade e motori. Non parliamo soltanto di auto, ormai lo sapete, ma di tutta la sterminata galassia della mobilità. E grazie al vostro contributo vogliamo provare a raccontarla anche un po' meglio, comunque più da vicino. Il nostro indirizzo di posta elettronica è stradeemotori@radio24.it, un indirizzo sempre a vostra disposizione per idee, suggerimenti, proposte, segnalazioni di problemi che hanno a che fare con la mobilità. Vediamo subito il sommario di oggi, una puntata ricca. Conosceremo come il settore dell'auto affronta un tema fondamentale, quello che è lo sviluppo del prodotto, però in linea con il risparmio energetico ed il rispetto dell'ambiente. Poi parleremo di ferrovia, un altro dei temi al centro della nostra trasmissione. Vi faremo conoscere come da 100 anni una strada ferrata davvero molto particolare risolve problemi complessi di spostamento di uomini e merci. Infine parliamo del caso della settimana, ovvero il maxi ritiro di auto deciso dalla Toyota in tutto il mondo. Ma partiamo subito andando a conoscere una delle grandi protagoniste del mercato dell'auto. Il 2010 è un anno importante per Peugeot, che festeggia il suo secondo secolo di vita, uno dei marchi più prestigiosi al mondo, una delle case produttrici di auto più importanti, ed è per questo che noi salutiamo con grande piacere il nostro ospite, il numero uno, l'amministratore delegato di Peugeot Italia, Alain Martinez. Buona domenica, buongiorno, dottor Martinez, grazie per essere con noi. Piacere di essere con voi. Allora, nuovo marchio per Peugeot dall'inizio dell'anno, c'è stato un restyling del famoso Leone d'Argento, dicevamo 200° anniversario dell'inizio dell'avventura, ma cambia in questo 2010 e come cambia anche la vostra strategia sul mercato? Allora, il 2010 è un anno molto importante, è vero, per il marchio Peugeot, perché festeggiamo il compleanno delle 200 anni dell'avventura industriale di Peugeot. Dunque è un momento molto importante per parlare del nostro futuro, della nostra ambizione, perché dunque abbiamo mostrato e scoperto al mondo un nuovo leone. Un nuovo leone molto più dinamico, metallizzato, più nel tempo, direi, un po' più aggressivo anche, che mostra la voglia, il desiderio del marchio di andare avanti. Abbiamo anche cambiato la nostra firma, che oggi è diventata Motion and Emotion, e questo è molto interessante perché mostra che per Peugeot c'è l'emotion, dunque la passione, direi tutto il lato passione del marchio, però anche l'esigenza, la tecnologia, direi tutto il serio del marchio, dunque Motion and Emotion. Il settore piccole e medio piccole è sempre più affollato. Con quali modelli Peugeot si propone nel 2010? Piccoli modelli, e là possiamo parlare un po' di più dell'Italia, perché il mercato italiano è concentrato su questi piccoli modelli. Noi copriamo il mercato su questo segmento molto bene, perché abbiamo la 107, abbiamo lanciato l'anno scorso la 206 Plus a febbraio con una versione GPL alla fine dell'anno, abbiamo la 207 e la 207 GPL, che era veramente un grande successo dell'anno scorso. Dunque abbiamo una gamma molto completa, molto interessante per rispondere alla domanda importante del mercato italiano, e dunque questa risposta sarà sia sul benzina sia sul diesel, però anche con una risposta GPL, sul GPL molto, molto interessante, molto forte. Credo che siamo il marchio, la più, con l'offerta la più grande, la più ampia, la più interessante sul segmento dei piccoli veicoli. A che punto è la ricerca di Peugeot nel settore veicoli ecocompatibili e per quanto riguarda le energie pulite? Allora, prima dobbiamo dire che Peugeot ha venduto a livello mondiale più della metà dei veicoli Peugeot l'anno scorso, con un'emissione di CO2 sotto il 140 grammi, e questo è veramente eccellente, e su questo punto siamo migliori. Il futuro è l'elettrico, l'elettrico. Allora, abbiamo annunciato alla fine dell'anno che lanceremo alla fine dell'anno 2010 una macchina 100% elettrica che si chiamerà la Ion, e che ha delle performance molto, molto buone, con un'autonomia di 130 chilometri, una macchina con 4 posti, dunque una vera macchina, non è una piccolissima macchina, una vera macchina con 4 posti, con un'autonomia di 130 chilometri e soprattutto una capacità di ricarica molto interessante, perché possiamo ricaricare l'80 della capacità della batteria molto poco tempo, in 30 minuti, dunque molto, molto efficace. In Italia si discute molto, dottor Martinez, ovviamente, di incentivi governativi per l'acquisto dell'auto. Qual è la sua opinione in particolare sulla situazione italiana? La mia opinione è che il mercato, che uno, il contesto economico è di crisi, la situazione si è stabilizzata, non si peggiora di più, però siamo ancora in una situazione difficile. L'abbiamo visto l'anno scorso sul piano automobilistico: senza l'aiuto statale il mercato avrebbe stato molto più basso, in realtà si è chiuso l'anno scorso a meno 3%, con l'aiuto statale. Dunque non siamo usciti della crisi, aspettiamo l'incentivo statale per quest'anno. Secondo me è importante di aiutare un settore come quello dell'automobile, fondamentale per l'economia di un paese come l'Italia, per passare, direi, l'anno 2010 in condizione abbastanza, direi, normale. Secondo me è indispensabile. Grazie allora ad Alain Martinez, numero 1, amministratore delegato di Peugeot Italia, ospite in questa puntata di Strade e Motori su Radio 24. Grazie, arrivederci. E dunque ne abbiamo parlato anche con Alain Martinez di Peugeot Italia. È fondamentale in questo momento per quanto riguarda le case che costruiscono, che producono, che commercializzano nuovi modelli di auto, andare alla ricerca di nuove tecnologie in campo automobilistico, appunto, che permettano il risparmio energetico e un maggior rispetto dell'ambiente. Guarda caso, o forse no, sono questi i temi al centro di Motec Eco, il salone proprio dedicato alle nuove tecnologie dell'auto che si svolge la prossima settimana alla Fiera di Roma. Abbiamo in collegamento per presentare questo evento Enrico Pascarella, che di Motec Eco è Project Manager. Buona domenica, Pascarella, grazie per essere con noi. Buona domenica a voi e grazie a voi. Cosa possiamo trovare in Motec Eco di quest'anno, Pascarella? Motec Eco è il salone della mobilità sostenibile, come giustamente annunciava. Motec è un evento trasversale, a me piace appunto dargli questo nome, proprio perché accoglie tutte quelle che sono le realtà del mondo dei trasporti che possano comunque contribuire a migliorare la mobilità in città. quindi abbiamo le macchine, ma abbiamo anche quelli che sono altre forme e mezzi di trasporto, che possono essere motorini, biciclette e quant'altro, ma non solo, perché le amministrazioni comunali, regionali e anche le istituzioni governative vogliono presentare quelli che sono progetti sulla mobilità e per informare, diciamo, gli utenti su come ci si può muovere meglio in città, consumando meno e muovendosi con minori difficoltà. Ecco, questo diciamo che in brevissimo, in sintesi, il contenuto di Motec di quest'anno. Ci dia qualche anticipazione, Pascarella, magari qualche soluzione che presenterete in anteprima nel corso del vostro salone, che ha voglia di anticipare per gli ascoltatori di Radio 24. Sì, volentieri, guardi, ci sono vetture elettriche e quindi molto interessante il progetto che sta portando avanti nella città di Roma per quanto riguarda la fornitura di colonnine elettriche e nuovi progetti appunto per dare la possibilità di sviluppare la mobilità elettrica in città. Il Comune di Roma con l'assessorato alla mobilità e all'ambiente presenteranno quelli che sono progetti per la ciclabilità e per appunto la nuova rete della metropolitana romana. Ci sono altre case automobilistiche che presenteranno comunque mezzi ibridi, GPL, metano e elettrici anch'essi. Ci sarà l'ATAC, quindi quello che è la realtà romana, diciamo locale, per quanto riguarda i mezzi di trasporto, e CODRAL per quanto riguarda la realtà regionale, che cercheranno di informare su nuovi sistemi anche di infomobilità. Insomma, di cose interessanti ce ne sono molte. Abbiamo poi la Tesla, che è la vettura elettrica che molti VIP americani hanno acquistato e che sta diventando un cool per gli Stati Uniti e sta arrivando anche in Europa. E la cosa molto interessante è che parte di questi mezzi possono essere anche provati, perché ci saranno dei test drive, e quindi prenotandosi online sul nostro sito www.motecego.it si potrà prenotare il test drive, quindi la prova di uno di questi mezzi a basso impatto ambientale. Quindi più che interattivo Motec Eco di quest'anno. Grazie al project manager Enrico Pascarella, che ce l'ha presentato in anteprime. Buona domenica e buon lavoro. Grazie anche a voi, buona giornata. Strade e motori. Strade e motori. Eccoci di nuovo insieme, amici di Radio 24, tanti gli argomenti di questa seconda parte. Prima ci ascoltiamo un po' di notizie della settimana, poi parliamo di una ferrovia molto particolare. Ancora forte l'effetto incentivi sul mercato dell'auto. In gennaio le immatricolazioni sono aumentate del 30,2% rispetto a 12 mesi fa, una tra le performance migliori mai registrate, e dovuta alla corsa all'acquisto dell'auto in dicembre, quando gli incentivi stavano per scadere. Meno positive le prospettive per il prosieguo del 2010. Gli ordini per gennaio vedono infatti un calo del 50% rispetto al trimestre precedente. Mano pesante dell'antitrust sulle aziende produttrici di caschi potenzialmente pericolosi. L'autorità ha condannato 5 case che producono e distribuiscono caschi da motociclista non omologati per pratiche commerciali scorrette, con sanzioni complessive pari a 465.000 euro. Le aziende punite sono RVM, Vismara, Made in Italy, Casco Bene e X-Moto. Scendono le emissioni di anidride carbonica delle auto oggi disponibili sul mercato italiano. Secondo uno studio LeasePlan, infatti, rispetto a 12 mesi fa, il valore medio di emissioni di CO2 per le vetture a benzina è passato da 200 a 192 grammi per chilometro, mentre per le diesel è sceso da 165 a 160 grammi per chilometro. Molto meno inquinano le auto a GPL, che emettono mediamente 137 grammi di CO2 per chilometro, l'11% in meno rispetto ad un anno fa. Ed ora parliamo di una delle ferrovie più belle del mondo, un'opera di ingegno incredibile che attraversa paesaggi indimenticabili. Parliamo della ferrovia del Bernina, è un qualcosa davvero di meraviglioso, sarà difficile così descriverlo in radio. Ci proviamo però in compagnia di Enrico Bernasconi, che è rappresentante per l'Italia della ferrovia retica. Buongiorno Bernasconi, grazie per essere con noi. Sì, buongiorno a voi. Effettivamente non pecchiamo di falsa modestia se asseriamo, oppure se i nostri clienti asseriscono, che la nostra è veramente una delle ferrovie alpine più belle al mondo. Ecco, dove si trova Bernasconi, la ferrovia del Bernina? Diciamo in Svizzera, nella parte orientale della Svizzera, quindi nel canton Grigioni, che è un cantone addirittura trilingue, italiano, tedesco e romancio, è il cantone più grande della Svizzera e sicuramente se cito la località di St. Moritz ci facciamo capire meglio. E dove arriva questo trenino? Qual è il punto di arrivo in Italia? Allora, la tratta principale, la più conosciuta, perché non è solo Bernina, ma diciamo ne parliamo, facciamo onore a questa tratta perché proprio quest'anno compie il suo primo secolo di vita, quindi è un giubileo molto importante, è una tratta anche, seppur per pochi chilometri, internazionale, nel senso che da St. Moritz o viceversa, naturalmente, questo fantastico treno passa per il punto più alto, 2300 metri, per poi scendere fino in Valtellina, toccando o arrivando alla località di Tirano. Quindi possiamo dire che questi 3 chilometri in territorio italiano ci danno anche un tocco di internazionalità. Ecco Bernasconi, dicevamo, difficile far immaginare ai nostri ascoltatori che non l'hanno mai visto che tipo di paesaggio attraversa questo treno. Ci vuol provare lei magari con una piccola cartolina? Io, il consiglio che io do è provare per credere, come diceva una famosa pubblicità, nel senso il miglior sistema sarebbe proprio quello di venire sul posto e ammirare questo paesaggio che è semplicemente idilliaco. Io cerco di esprimere con le parole, molto difficile, dico solo che questa tratta 2 anni fa è stata insignita del titolo prestigioso di patrimonio mondiale UNESCO, non solo per la tratta ferroviaria ma anche per il paesaggio circostante, e questo forse dice tutto o forse anche di più rispetto a quello che potrei dire io. Dico solo natura incontaminata, vette alpine diversi 4.000 metri che si possono mirare dal finestrino, e praticamente tutto quanto di più bello madre natura ci ha regalato lo si può ammirare in queste 2 ore e mezza di spettacolo. Poi ci sono tanti episodi, tanti aneddoti, tante curiosità che sono legate a questa linea ferroviaria, d'altronde un secolo di vita e in quelle condizioni chissà, insomma, come si suol dire, quante ne ha viste, no? Una ferrovia del genere. Vuole ricordarci qualcosa? Ma qui forse possiamo fare un grande elogio ai nostri avi, ai nostri predecessori, a coloro che hanno avuto l'idea di crearla, questa linea, in mezzo a tantissime difficoltà, in mezzo con dei mezzi naturalmente molto rudimentali che non erano quelli di oggi, eppure la linea resiste, eppure certi passaggi che sono stati costruiti 100 anni fa non fanno, come si dice, una piega. Io forse tra tutti gli episodi o tra tutte le particolarità ne citerei forse 3 in un modo molto molto veloce. È la ferrovia più ripida praticamente al mondo che va senza l'ausilio di una cremagliera. Un'altra particolarità sono delle gallerie, dei tunnel o dei percorsi elicoidali, significa che praticamente il treno per sopperire o per affrontare queste asperità non lo può fare in linea diretta, ma sono state create proprio delle gallerie che girano su se stesse per alleviare la pendenza. Il terzo caso è una cosa quasi incredibile, è la ferrovia del Bernina, sempre grazie ai nostri avi di 100 anni fa, perché questo di cui sto parlando era già in funzione 100 anni fa, circola con qualsiasi condizione climatica tutto l'anno, 365 giorni all'anno. Quando nevica forte c'è un particolare macchinario che circola davanti al locomotore che praticamente si pulisce la strada da solo sparando in un modo spettacolare la neve ai lati, si formano magari dei muri di 3-4 metri di neve, ma il treno circola e circola in orario perché siamo svizzeri. Ci diceva già, si festeggerà quest'anno il 100° anniversario, il secolo di vita della ferrovia, come lo festeggiamo? Per quello che ci concerne, cioè quello che concerne la clientela italiana o comunque tutto il pubblico italofono, io citerei 2 eventi particolari, uno addirittura in territorio italiano, a Tirano, sarà l'8 e il 9 di maggio, e qui devo dire tutto è stato possibile, saranno 2 giorni di festa, sarà una kermesse ferroviaria, gastronomica, culturale, musicale, eccetera, eccetera. Tutto questo è stato possibile grazie alla nostra pluriennale collaborazione con il Credito Valtellinese, che anche questa volta è diventato il nostro sponsor principale per questo evento. Quindi un appuntamento 8 e 9 di maggio per tutti gli appassionati e non in quel di Tirano, sarà una grande festa. In seguito, durante il mese di giugno, tra il 18 e il 20 di giugno per l'esattezza, sempre nella regione italofona, ma questa volta in Svizzera, nella Val Poschiavo, nella fantastico anfiteatro naturale del Viadotto di Brusio, un'altra 3 giorni di festa in cui saranno presentati tra l'altro anche dei nuovi materiali rotabili, sia a Tirano sia nell'evento di Poschiavo. Quindi non mancate a queste 2 date. E grazie allora e buona domenica ad Enrico Bernasconi, rappresentante per l'Italia della Ferrovia Retica, che ci ha aiutato un po' a scoprire questo straordinario, dicevamo, esempio dell'ingegno umano, opera di ingegno davvero incredibile, la Ferrovia del Bernina. A presto Bernasconi, grazie. Grazie a voi, buona domenica a tutti, grazie. E dalle ferrovie torniamo a parlare di auto e lo facciamo innanzitutto salutando il nostro ospite, il condirettore di Quattro Ruote, Carlo Cavicchi. Buona domenica direttore, ciao, ben trovato. Buona domenica a tutti. Allora, parliamo con te della notizia della settimana, indubbiamente fatto gran rumore questo maxi richiamo da parte della Toyota su milioni e milioni di veicoli, non soltanto in Europa ma in tutto il mondo, e poi a cascata queste misure sono state prese anche da altre case costruttrici. Vuoi un pochino riassumerci la situazione, direttore, al momento? Beh, qual è? Sì, il tema ovviamente grosso, è una notizia del decennio se non del secolo, qui rischia di diventare, perché la Toyota è il primo costruttore al mondo, anche se adesso in questi giorni è stato un sorpasso da parte del Volkswagen, se si considera la partnership con Suzuki. Bene, la casa americana, giapponese, ma nella parte americana, perché il problema parte dall'America, ha avuto un problema all'acceleratore, problema che è dovuto a un fatto che le macchine moderne sono estremamente complesse, piene di elettronica. Lì c'è un piccolo particolare, quello che Enzo Ferrari un tempo diceva, che le sue macchine si fermavano sempre per un accessorio da 10 lire fatto fuori dall'azienda. E anche in questo caso è così, perché una casa grande come la Toyota, con la produzione che ha, non ha lo stesso fornitore dappertutto, perché lo stesso problema all'acceleratore dal fornitore giapponese non si è verificato, dal produttore americano sì, vengono fatte fuori, perché un potenziometro, ormai l'acceleratore non ha più il cavo come una volta, ma nel pedale dell'acceleratore c'è un potenziometro come nelle vecchie radio, un sistema che passa un segnale alla centralina, da qui si comanda l'acceleratore. C'è una piccola piastrina che in certe condizioni non lavora bene, il pedale si irrigidisce un po', diventa duro quando lo si schiaccia, o delle volte non torna perfettamente indietro. Direttore, dal punto di vista dell'automobilista, 2 domande. La prima, come può succedere una cosa del genere nel 2010 con tutti i controlli che ci sono? La seconda è, cosa rischia un possessore di Toyota, senza voler fare degli allarmismi così, che magari sono ingiustificati, però c'è del rischio? Allora, le macchine di oggi, è più normale che questo capiti sulle macchine di oggi che sulle macchine di ieri, perché le automobili di oggi sono estremamente complesse. Direi che non è inutile fare dell'allarmismo. Oggi in Europa i casi gravi, perché l'America ha segnalato dei casi che vanno poi dimostrati, ma insomma di casi di incidenti mortali, l'Europa questo problema ancora non ce l'ha, c'è al caso di qualche problema che giustamente non ci deve essere, ripeto, e infatti i richiami arriveranno. All'utente normale va detto che se dovesse avere la sensazione che c'è un problema deve subito segnalarlo, intanto la Toyota richiamerà tutte le macchine per un controllo, ma se uno ha un problema può andare direttamente a dirlo, deve segnalarlo e penseranno loro a controllarlo. È vero che noi con le nostre automobili, se uno per caso dovesse sentire che ha la percezione che l'acceleratore non torni indietro bene, sì, giustamente si preoccupa, si spaventa, la miglior cosa che deve fare è comunque spegnere il motore, non staccare la chiave però, perché se stacca la chiave e la toglie gli va dentro il blocco a sterzo, deve lasciare la chiave dov'è ma spegnerlo. Però è un caso veramente estremo, io penso che questa cosa noi non ci andremo incontro. Non saremo toccati, speriamo, ce lo auguriamo ovviamente. Nel frattempo ti ringraziamo, grazie a Carlo Cavicchi, condirettore di Quattro Ruote, a presto direttore. Arrivederci. È tutto per questo appuntamento con Strade e Motori. Vi ricordo che sul nostro sito www.radio24.it potete trovare tutte le nostre trasmissioni e approfondire gli argomenti che tocchiamo ogni settimana. Se avete voglia di iscriverci, fatelo pure al nostro indirizzo mail stradeemotori@radio24.it. Grazie allora per aver viaggiato con noi, grazie a Paolo Corleoni per averci guidato in regia. A voi tutti l'augurio di un buon proseguimento in compagnia di Radio 24.